a parte pure c'è nel nu che sono in inferia e fa che brutta figura a me, lascia perdere. No, tu non ne prendi, sapete che sono paese malissimo, ha una cosa negativa, però che bisogna fare a noi, di 30 anni, non me. Non dici, ah, se sono visto in un gruppo, capitano che ha sempre conosciuto su Made in Uri, Belfast, ha conosciuto Nardo Gabbia, su quindi a doppietta, ha conosciuto su Masellaccio, a Gianni, non so quello che Masellaia, ha conosciuto su Becchino, ha conosciuto a Palegana, ha conosciuto su Maresciallo Altea. Ma è qualcosa di zimbara da conosci tu, schiattie. Se tu andas a un orso, no? E vada sorso, in questo orso la terra si presuppone che c'è tutto che fare, no? E va piantato, sento qualità di fenugio, e tu ti dici su più mezzano, su qualche cazzo sei tu. Deve imparare che in questa cosa, e lei che in America Montessa non binara, binara da Purinie, senza altro, ma che ti sono credente che comunque linea massima, ma cosa una meta, compreso, sicuramente tu non hai idea, tu vivi in via Capurno, vicino a Gnocchetto, e se sei ancora drommito, non è che tu non lo vuoi male, tu non lo vuoi enemi, tu sei drommito, cazzo, drommito, a canto di sveglia, se sei troppo d'alto, yeah? Se comunque noi sono una camala, mi pare che si tratta di pezza dei furi, noi sono andesa comunque, comunque si pensa che non è male, sì, ma casa leato, un modello base, mi sono comprato, capite? Non lo so, non lo so, ma poi ti vintra là, se tu è male a 100 milioni di mixer, troppo è nato. E come ti sono andato tu, no, non lo so mai, dovete che era? Sì, ma, ore, prima mi sono che non vai a mixer americano in Italia, come precisamente sono nelle puntate fuori che gioco un mezzo, ma ti decidi? Guarda, sinceramente la regione, un amico mio, la pensa che a te deve essere bello e buono, infatti su mixer, su book su mixer, che vuole sa minchia, a parte che la vuole dice ma sono sa muzzere, sai che non comunque posso come a te, compreso, ma questa è un'altra regione, capite tu e hai trovato sempre a potuto un campamento su mixer, così ne deve comprare un cazzo, niente comprende, ma te è buono, sono sempre meglio, ce lo fa qui di due. Non è che sono una ragazza bene già passata, dici le commenti di Rego, capite che cazzo va dentro? No, piano piano, non te ne brinca di la griglia. Tu è una ragazza, io ho una cosa capito, punto. E poi, finita. Però poi, parami di cosa, sai, non mixer. E i baia, sai, che non ha chi non cambia su sono, se si baia, ende. Non ha fette. Può essere che ha fatto la regione, sì, senz'altro, ma resta un problema, che comunque deve sempre scegliere l'apparato che ti piace, se io non dico, inizia ma sono stati più in conca due, che è impossibile mi pare di decifrare, credo che c'è tutta una confusione, tutto un casino, che io vedo in conca su la pannone seppere hai perché mi sono già a mente hai per dove? Dove? Di te? Dove? Dove? Subito, ok? Ti rispondo subito, aspetta.